noi abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Quando abbiamo vinto la Coppa dei Campioni a Manchester, ho tenuto nelle orecchie e nel cuore una canzone che vorrei cantare adesso insieme a voi. Comincio io. Ale, ale, ale, Milan, ale, forza lotta, vincerai, non ti lasceremo mai. Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Amori indivisibili, indissolubili, inseparabili. Ancelotti, Ancelotti, destro, gol! Grandissimo gol di Ancelotti. Ancelotti al 18esimo, forte il pareggio in Berlino. Odiarsi mai, per chi si ama come noi, basta sorridere. Ritornerei, come no? Perché no? Milan rimane un ricordo bellissimo, perché no? Se devo pensare di ritornare un giorno al Milan, sarei contento di poterlo fare. Allora, non un caso che il primo WhatsApp ricevuto oggi, 800240024, le vostre chiamate 349-238-6666, messaggi WhatsApp, non è un caso che sia Carlo ritorna, tre punti esclamativi, il Milan ti ama, tre punti esclamativi. Allora, questo, mentre saluto Giovanni Capuano che è qui oggi, perdoniamo tutti, Pierluigi Pardo. Ciao. Che è successo? Dove si è nascosto? Si sente bene? Com'è? In ritardo? No, si sente benissimo, si sente benissimo. Mamma mia, che collegamento superstar. Se, allora, questa seria, che avete sentito adesso non è nuova, è un recupero, è vintage, del 2015, quando fu quel famoso viaggio di Galliani a Madrid per far tornare Carletto Ancelotti, che ieri è stato esonerato dal Bayern di Monaco. Saluto e ringrazio Alessandro Alciato. Mi sto asciugando le lacrime, buongiorno. Adesso. Vogliamo dirlo che oggi perdoniamo tutti, aspettiamo anche quelli che pensano, perché sono in tanti, che Carletto sia sul carrello dei bolliti. Noi li perdoniamo e li aspettiamo tutti. 800 24 00 24. Allora, pensa, ragazzi, ci sono. Ma scusami, ma in che modo, in che maniera sul carrello dei bolliti? Pardo, sul carrello dei bolliti Ancelotti, ma quando mai? No, ma infatti non direi proprio di no. È chiaro che bisogna essere onesti, nel senso che poi alla fine bisogna anche essere legati a ciò che è realmente accaduto. Ciò che è realmente accaduto è che il Bayern ha avuto un difficile inizio di stagione, non abbastanza secondo me da giustificare un esonero, e quindi mi viene da pensare che ci siano delle ragioni più profonde. Un fallimento è sempre un fallimento. Conosco Carlo abbastanza bene, Alci lo conosce ancora meglio ed è il suo biografo. Credo che, insomma, Carlo è uno che quando le cose non vanno non nasconde la testa sotto la sabbia, lo riconosce, quindi sarà lui il primo a non essere soddisfatto di come sono andate le cose. Mi sembra eccessivo l'esonero, e sono sicuro che ci sarà una nuova ripartenza forte sua, nel senso che lui comunque rimane uno bravissimo. È uno che non è che ha vinto 10 anni fa, ha vinto sempre. Quindi, ha vinto sempre. Ecco. Alessandro. Quindi, insomma, Alessandro Alciato. Allora, qui le ragioni sono più profonde, che diceva Bardo, sono state chiarite da Enes e confermate, è stato fatto fuori da 5 senatori che non andavano d'accordo con lui. È il primo esonero in corso di stagione di Ancelotti, per Ancelotti. Ci sono altre risoluzioni del contratto, eccetera eccetera, nella sua storia col Chelsea, con Real Madrid, perché Capuano sa tutto e mi correggerà se sbaglio. Allora, Alessandro, La storia di Ancelotti al Bayern è stata una storia tra alti e bassi, un inizio stagione pessimo e ora i cinque senatori che lo fanno fuori. Sì, la vera novità nella storia di Ancelotti è che fino all'altro ieri lui il carrello dei bolliti che lo mangiava, stavolta il carrello dei bolliti giocatori l'ha fatto fuori, perché la verità l'ha detta Hoeneß, ma la verità la sapevano tutti. Io aggiungo dei particolari alla storia per capire. L'altra sera al Parco dei Principi, Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Robben in panchina, Ancelotti si gira e gli dice vatti a scaldare, lui fa finta di non sentire. Glielo dice una seconda volta e lui fa di nuovo finta di non sentire, è andato a scaldarsi più o meno 7 minuti dopo la prima volta che Carlo Ancelotti gliel'aveva detto. Quindi un chiaro segnale, altro chiaro segnale che era molto visibile dalla panchina del Bayern Monaco: a ogni gol del Paris Saint-Germain gli amici di Ribéry in tribuna, che non erano seduti troppo distanti dalla panchina, hanno esultato. Mm-hmm. Ribéry e Robben, due grandi esclusi. Müller giocava, ma insomma era già ai ferri corti con Ancelotti. Molti andavano a piangere da Hoeneß, che Ancelotti probabilmente non l'ha mai amato. E tutto questo non è un problema che è scoppiato nell'ultima partita contro il Paris Saint-Germain, ma un problema che andava avanti da tempo. Quindi insomma, dei problemi c'erano. La cosa incredibile è che sia stato esonerato a fine settembre, soprattutto che Rummenig, che è stato sempre il suo grande amico, in un certo senso sia stato sconfitto da Uli Hoeneß, perché c'è una guerra ad altissimo livello nella dirigenza del Bayern Monaco proprio fra Hoeneß, che è il presidente, e Rummenig. E probabilmente Rummenig, dopo aver capito di essere stato sconfitto in questa battaglia, per non affondare anche lui con l'allenatore, cosa ha fatto? Ha detto sì a questo esonero, anche se poi era dichiarato che io e Carlo resteremo comunque sempre amici. E questo è vero, perché insomma se era un bel rapporto, magari non è così bello da oggi, ma secondo me tornerà a essere bello fra un mese, fra due, fra tre, fra quattro, fra qualche mese, insomma. Ragazzi, per il resto tutto bene. Per il resto tutto bene. C'è una cosa sorprendente di questa vicenda, e questa va detta, cioè che Carlo, che è uno dei più grandi allenatori della storia e che ha come sua caratteristica probabilmente principale e migliore la capacità di farsi amare dai giocatori e dai giocatori di grande personalità, questa volta sia stato fatto fuori da questo manipolo, certo, di, certo, giocatori, certo, però certo, onestamente di livello. Certo. Cioè questa cosa qui comunque È a fine corsa, perché Ribéry, Robben sono insomma gente abbastanza. Sì, però io ti dico la verità, io penso che la vita di un allenatore sia anche, gli allenatori sono anche un po' in campagna elettorale all'interno dello spogliatoio, no? Per farsi amare. E Carlo è stato veramente ed è veramente il numero uno da questo punto di vista, puntando su una leadership che Alessandro ci ha raccontato nel libro. Mm-hmm. È una leadership morbida, è una leadership di una persona che si fa amare dai suoi uomini. Io mi ricordo le parole di Cristiano Ronaldo quando ha lasciato Real Madrid, sono parole impressionanti per un giocatore, per una multinazionale, per una delle più grandi aziende al mondo come la CR7. Quindi sono parole veramente molto indicative. Questo è un po' sorprendente. Poi è ovvio che nella vita puoi trovare pure un gruppo di persone che non si vogliono comportare bene, che in quel momento hanno altri interessi e ti fanno fuori. Però questo secondo me è l'unico vero cruccio che deve avere Ancelotti dentro di sé, e cioè il fatto che una delle sue qualità migliori questa volta non abbia funzionato. E forse dentro di sé ci sarà anche un pizzico di autocritica per questo, perché ripeto, stimo troppo Ancelotti per pensare che lui non consideri tutto questo come comunque un piccolo fallimento di una carriera leggendaria. Questo, comunque l'altra sera lui che mangiava dei pazzi averlo fatto fuori. Sì, lui che mangiava mentre Rummenigge preannunciava a cena dopo la partita che sarebbe corso sangue nelle ore successive. Sì, ovviamente in maniera metaforica è stata un'immagine stupenda. Detto questo, nello spogliatoio del Milan non ci sono senatori. Ecco, allora a questo punto giro di opinione prima di salutare al chat, magari di sentire anche qualche ascoltatore più tardi, 800 24 00 24. Allora, Ancelotti, Milan, si può fare, si farà. Ricordiamo che Ancelotti potrebbe già allenare in un'altra lega che non sia la Bundesliga in questa stagione. Pardo Capuano, ditemi la vostra. Io voglio soltanto ritrovarlo in Italia, poi se sarà il Milan, lui per tanti anni ha parlato di Roma, adesso la Roma è in buone mani, c'è, d'accordo che è stato rinnovato il contratto a Ventura, e speriamo ovviamente di andare ai mondiali c'è sempre stata una suggestione nazionale. Io sono, non vedo l'ora di rivederlo, proprio non vedo l'ora di rivederlo fisicamente, nel senso che è una persona che mi fa star bene anche nelle chiacchiere post, nelle chiacchiere informali. Quindi io non, io spero che torni, spero che torni. Adesso credo che sarebbe veramente poco delicato nei confronti di Montella, di Francesco, che fra l'altro, ripeto, sta andando molto bene, e di Ventura mettere questa pressione qui. Però insomma, che Ancelotti sia un valore del calcio mondiale, che sia bello avercelo in Italia e che non vedo l'ora di ritrovarmi nel post partita, questo per me è evidente. Poi forse Alci sa qualcosa in più. Che sai in più, Alessandro? Che sicuramente non a breve non lo vedremo in Italia, perché insomma questo non è il momento. È vero che il Milan sicuramente un tentativo nel caso ci fosse bisogno lo farebbe, stessa cosa altre squadre, ma diciamo che a breve in Italia non lo vedremo. Cosa intendi per a breve? In questa stagione. Stagione. Torna a pescare salmoni. Sì, questa infatti è quello che succederà a breve con un viaggio a Vancouver, ma vi aggiungo anche un altro particolare per far capire insomma che è anche molto attento a una certa delicatezza anche in questo momento, perché lui il 6 ottobre, giorno in cui a Torino si giocherà Italia-Macedonia, sarà proprio a Torino per ritirare un premio letterario, tra l'altro organizzato dalla Federcalcio. La federazione gli ha detto: resta la sera a vedere la partita. Lui ha detto: assolutamente non no, se ne parla nemmeno. Pensate cosa potrebbe accadere. L'invito era precedente all'esonero, ma ancora oggi si è confermato che non si fermerà, proprio perché non vuole alimentare voci che in questo momento sono prive di fondamento, ma davvero al 100%. Però possiamo fare un po' i maligni. Allora, lui va a Vancouver a pescare salmoni. La domanda è: quando riaccende il telefonino? Perché sai, Se l'idea è che magari lo scenario della panchina dell'Italia può diventare qualcosa di concreto, magari dopo il mondiale, se le cose non dovessero andare in maniera straordinaria, non sono cose che si organizzano a luglio. Cioè non tutti gli anni Conte litiga con la Juve il 14 luglio. Sono cose che eventualmente devono essere sondate prima, in primavera, febbraio, marzo. E Carletto quando è che lo riaccende quel telefono per sapere cosa fa l'anno prossimo? Adesso vado in tutto, però insomma, conosco abbastanza bene il personaggio. Magari il telefono potrebbe essere acceso nel momento in cui, in questa stagione già in Inghilterra, l'Arsenal non dovesse più andare d'accordo con Wenger, oppure il Liverpool dovrebbe stancarsi di Klopp, perché l'Inghilterra comunque è sempre in cima ai suoi pensieri, insomma il cuore batte per l'Inghilterra. Poi è chiaro che se dovesse chiamare il Milan, il telefono per il Milan sarebbe sempre acceso, perché il Milan è davvero una parte straordinaria della sua storia, lo ripete ogni giorno e lo ripete ogni ora. Però insomma, le indicazioni mi sembrano molto chiare, cioè che in Italia sicuramente nel corso di questa stagione non lo vedremo. Dovesse capitare l'occasione inglese, non mi stupirei invece di vederlo di nuovo in Premier. Grazie Alessandro, grazie Ale. Grazie a voi. Grazie Alessandro. Ciao, grazie Alessandro Alciato, ci fermiamo per il traffico. Portacelo qua, Ancelotti, con un leggero ritardo sul traffico. Subito dopo l'intervallo la lotta continua. Tutti convocati. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it. Vi presenta Convocati. Urge la porta, la allarga, Immobile, la incrocia col destro, al 90° la chiude lui, Ciro Immobile, straordinario, 2 gol in 2 partite in Europa League, assegno anche oggi. Take a look at how I'm doing. I primi 20 minuti buoni, il resto un po' meno, però è normale, è la terza partita di settimana, quindi adesso dovremo cercare di recuperare un po' di forze per la partita di domenica. A 120 secondi il Milan per rimetterla nel binario, giusti, Cutrone! Patrick! Cutrone! Il predestinato al 94! Then I close my eyes and let stata una gioia indescrivibile, insomma, vedere la squadra mettere in campo questo orgoglio e questa energia alla fine. Questo deve essere naturalmente un inizio energetico, no? Come mi piace dire a me in questo periodo. Quindi con Benucci un po' di più ce l'aveva, perché il capitano è quello più esperto e doveva essere più bravo a trasmettere anche il tipo di gestione di partita. In Europa i gol, il Papu Gomez. Un grande risultato, perché abbiamo incontrato una squadra forte. Abbiamo sofferto molto, soprattutto il primo tempo, però i ragazzi sono stati straordinari e hanno a recuperare questa partita che a noi servirà molto anche per il futuro. Beh, siamo andati vicino all'Emplen, o forse ci siamo anche arrivati, perché il pareggio d'Atalanta a Lione è un risultato straordinario. Abbiamo 5 vittorie e 6 partite. La Germania invece, al contrario, è Giovanni Capuano, 6 su 6 ma di sconfitte. Sì, ma è tutta la stagione che i tedeschi stanno facendo di tutto per cancellare l'impressione che hanno fatto nelle ultime stagioni. Io però dico provo a dire un'eresia, che questa è giusto che noi siamo davanti alla Germania nel ranking UEFA, che adesso conta meno, perché basta essere nelle prime 4, quindi terzo quarto cambia poco, se non perché possiamo dire che siamo terzi. Però dietro il Bayern e il Borussia Dortmund la loro classe media non è straordinaria, no, il ranking è la fotografia di certo, tutto. Sono d'accordo. C'è Luca Antonini, ragazzi, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao Luca. Senti, è indubbio che in questa settimana di Europa in cui gli italiani hanno brillato, il Milan ha confermato di essere in un momento così. Rijeka non era un avversario, ovviamente impossibile, non era neanche un avversario difficile. Ha salvato la buccia all'ultimo istante con Cutrone. Che cosa possiamo leggere in questa partita del Milan? Ma si può leggere un po' di... secondo me ancora non si conoscono bene, mettiamola così, qualcuno ancora non ha ben capito cos'è il 3-5-2, soprattutto nella fase difensiva, perché ho visto degli errori in fase proprio di impostazione, anche in fase difensiva della linea difensiva, che vuol dire che qualcuno ancora, forse non avendolo mai fatto, non ho ancora capito i movimenti da fare, perché Milan davanti dei gran bei giocatori giovani e di grandi prospettive, infatti hanno portato a casa 3 gol, sì. Però se vuole vincere e vuole ottenere ottimi risultati, deve migliorare tanto nella fase difensiva. Questo è chiaro. Pardo? Ma ieri era importante vincere, come ha scritto Bonucci. Sei sicuro? È arrivata attraverso in questo la sofferenza. Sì, era importante vincere. Meglio di niente. Meglio di niente. Comunque è stata una partita. Ma io che ti devo dire? La mia sensazione, adesso poi tra un po' facciamo la schedina. La mia sensazione è che il Milan non stia attraversando un grande momento. Tanto per essere chiari, secondo me sta meglio la Roma adesso. Poi ovviamente giocare a San Siro non è mai facile, visto che poi insomma questa partita è fra 2 giorni e mezzo, anzi fra 2 giorni e poche ore, quindi è chiaro che Milan-Roma è un passaggio cruciale della stagione. La confusione è tanta, le qualità ci sono, ma non è facile metterle insieme. In generale credo che si debba ricordare che nel momento nel quale diciamo che è stata la più clamorosa rivoluzione d'estate della storia del calcio italiano negli ultimi anni, questo implica, anche per merito dei dirigenti, questo implica che poi si debba inevitabilmente concedere un po' di tempo in più, perché è una rivoluzione, perché non è una riforma, è una rivoluzione. E quindi io sono ancora assolutamente convinto che Montella debba essere atteso, però non sia un cose, dead man walking, gli elementi di confusione ci sono, che non ma sia no, un dead man walking, deve essere un dead man walking, però cioè, posso chiedervi, a parte che ti posso dire, per me l'esonero a settembre è ridicolo, ma io ridicolo, ti ricordi anche l'anno scorso, ma soprattutto non funziona Burr, mai, ma non perché no, ma io voglio dirti, ho difeso De Burr perché com'era De Burr o De Burr? De Burr, De Burr, ti ricordi che ci scrivevano gli amici De Burr? De Burr, De Burr, Beh, dico una volta le berre e una volta le burre. Io l'anno scorso l'ho difeso anche, non è che ho difeso lui, ho difeso il fatto che se tu fai una scelta di quel tipo, un allenatore rivoluzionario in estate, e la fai il 10 agosto, cioè lo porti il 10 agosto in Italia, non puoi il 15 settembre, se vuoi fare una rivoluzione, scaricarlo. Poi mi pare chiaro che non siamo di fronte a un allenatore che in questo momento è in grado di fare carriera, si è visto anche in Inghilterra, quindi è chiaro che era indifendibile, però è proprio il principio che ci sta dietro. Il Milan ha fatto una grande rivoluzione e secondo me bisogna darsi 2-3 mesi di tempo. Poi però proprio per questo, Pier, perdonami, proprio per questo, e voglio sapere anche cosa ne pensa Luca. Io trovo che le difficoltà di ieri sera del Milan nascano dalle 72 ore precedenti, cioè c'è stata una drammatizzazione della sconfitta di Genova che secondo me ha tolto anche quelle poche certezze che il Milan aveva dal punto di vista psicologico. Nel calcio di oggi la sconfitta di Genova è drammatica, per come è arrivata. Però se tu dici è un progetto che deve partire e poi gli togli terreno da sotto le gambe, secondo me alla fine hai fatto un danno. A farlo nella maniera in cui è successa, io non so come può reagire dentro uno spogliatoio Luca. Sicuramente la partita di Genova ha fatto capire che ancora questo Milan non è pronto per lottare per le prime quattro posizioni del campionato. Questo è poco ma sicuro. Però ho letto delle cose pesanti. Cioè, nel senso, se è una squadra, come ha detto Pierre, e lo è, una squadra che è stata rivoluzionata totalmente, sia dal punto di vista di società vera e propria, istituzionale, sia dal punto di vista parco giocatori, bisogna avere la pazienza e la sensibilità che se nel momento in cui le cose non vanno bene bisogna fare cerchio, bisogna cercare di tirare fuori le cose positive se ci fossero, e se no lavorare su quelle negative. Ma siamo all'inizio, cioè, è una squadra appena nata. Se non si dà il tempo a Montella di crearla con la giusta mentalità, con i giusti modi, è un problema, campo, ma certo non ha senso. Il Milan l'anno scorso secondo me era una squadra con la mentalità provinciale ed è per quello che ha ottenuto i risultati. Quest'anno evidentemente ha comprato giocatori più importanti, giovani ma molto più importanti, e quindi quel tipo di mentalità, essendo stranieri, non avendo mai giocato in Italia, alcuni di questi devono ancora prenderlo, questo tipo di mentalità. Quindi c'è bisogno di tempo e un po' di serenità. Grazie Luca. Grazie a voi. Abbraccio, Luca Antonini. Io proporrei, sentiamo un ascoltatore che è Gloriano da Modena, che è lì da un sacco, e poi Schedina di Capuano e Pardo. Quanto siete a proposito? Oh, classifica? 3-0. 3-0. 3-0. Domenica è andata pari, siamo 3-0 e poi c'è quel Roma-Sampdoria. Domenica è andata pari, Sampdoria, per l'ennesimo miracolo. Sì. Gloriano, buongiorno. Buongiorno a tutti. Dica. Volevo, tifoso Milan, dire che pur essendo un estimatore di Ancelotti non vorrei che tornasse al Milan, perché a parte le minestre riscaldate, vedi, cappello e sacchi, Ancelotti è sempre stato un grande allenatore, ma secondo me ha sempre curato poco la difesa. Vedi Paris Saint Germain, vedi Chelsea, vedi Bayern, anche mercoledì sera basta vedere il gol che ha preso all'inizio, quando ancora la partita era in bilico, la difesa completamente scoperta, e anche la Real Madrid la stessa situazione. Per cui il Milan adesso invece aveva proprio bisogno di uno che curi molto molto la difesa, perché è il punto debole della squadra. Grazie a lei. Beh, mi pare sulla falsa riga di... Sì, c'è qualcuno che ragiona su un Ancelotti criticabile, che poi si può criticare, per carità, però ad esempio mi viene in mente che l'anno scorso il vero problema di Ancelotti abbia avuto un nome e un cognome, cioè Cassai, l'arbitro della partita di ritorno con il Real Madrid, certo, altrimenti magari stavamo a raccontare una storia diversa, chiaro, è chiaro. Se vi ricordate che cosa è successo quella sera. Allora, Schedina ragazzi, Schedina pronti? Vai. Schedina. Io faccio il giudice arbitro. Prendo nota. Domani Udinese Sampdoria. Chi è che comincia? Ecco, la più difficile. Vai Gabons. X. Tanto lo sbaglio. Quindi no, questa è uguale. L'hai seguita, è giusta. Stai giocando a ripiattino, pardo. X, dai, la prossima. Genoa Bologna. A Bologna 1. 1 anch'io. Andiamo domenica, Napoli-Cagliari 1-1. Benevento-Inter 2-2. Chievo-Fiorentina Chievo-Fiorentina, ti dico X. Anche se avevo una mezza tentazione di... No, facciamo così, ti dico 2, dai. Via, Chievo-Fiorentina 2. Lazio-Sassuolo, X. 1. Spal-Crotone, mica faccio. 1. Scusate, io ho detto 1, l'ho detto X, no? Sì. Dove in... no, Lazio-Sassuolo è 1, tutti e 2. Chievo-Fiorentina, io 2, tu X. Ok, vai. Spal-Crotone, io ho detto 1. X. Torino-Verona. 1. 1. Milan-Roma, occhio. X. 2. Atalanta-Juventus. 2. Ed è 2 anche per me. Queste le schedine, ragazzi. Beh. Queste le schedine mamma di Pardo Capuano. Mamma mia, che non lo so. Quindi abbiamo la Chievo-Fiorentina, giusto? Abbiamo Chievo-Fiorentina, Spal-Crotone e Milan-Roma. Senti, Mauro, provincia di Venezia, dai. Prima sarà, della borsa. Tanto siamo in ritardo. Succede poker. Buongiorno. Saluto ad Antonini, che era il nostro ex terzino. E io sarei a favore di Ancelotti, anzi lo spero molto, e faccio un appello a Fassone dicendo che mi faccio l'abbonamento al Milan se torna Ancelotti. Ah, vabbè, allora Fassone prenderà nota. Ma è già attivo, secondo me, è già attivo Fassone. Il problema è che ci ha spiegato Alessandro che in Canada il telefonino non prende. Mentre peschi salmoni. Quindi... Va bene, ragazzi, allora saluto Pierluigi Pardo, che mai ho sentito così bene, sono un po' quasi commosso, Pier. Eccomi, ci sono. Ti saluto, perché adesso ho Racing Team. Com'è andato? È meraviglioso, sono commosso. Eccezionale. Ciao Pierluigi, sentiamo domenica con Capuano, ciao, in tutti i convocati weekend. Noi ci fermiamo per la borsa e poi, ragazzi, Leo Turrini, Roberto Ungaro, Giancarlo Minardi, una Ferrari che si gioca tutto nella gara che ci attende dopo. Bene, allora siamo tutti convocati. Tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Racing Team. E ci siamo, ragazzi, abbiamo bucato l'appuntamento venerdì scorso, ma in onore a Sua Maestà la Coppa dei Campioni, che era qui con noi con Cafu e Chivu. Oggi torniamo, Giovanni Capuano qui con me, con i nostri due alfieri. Leo Turrini, oggi scomparso fino a pochi minuti fa, dove eri? Sono Piero Cormano! Guardate, c'è una coda disumana, chiedimi perché. Perché? Perché c'è il furgone della famiglia Ancelotti, che avevano 5.000 lattine di birra, lui, il figlio in genero, già ordinate da consumare lì al Bayer, e se ne stanno portando a casa. Ma siamo tutti fermi, tutti in coda. È una cosa pazzesca. Prima vi ho sentito tutti a dire torna Ancelotti in Italia. Ma questo prima deve scolarsi 5.000 lattine, hai capito? Ma tutto il tempo pescando salmoni in Canada, Turrini, non ti preoccupare. Ho capito che voi lo volete al posto di Ventura. Avete fatto i furbini a dire ma il Milan, l'Arsenal, ma in realtà state già tumulando il povero commissario tecnico della Nazionale. Cattivi, non si fa così, cattivi. Ciao Roberto Ungaro. Ciao Carlo, un saluto a tutti. Tu Leo, devi prenderti la guida assistita che vivi perennemente in colonna. Hai ragione. Qui no, deve prendersi una badante. Basterebbe anche che al volante mio della mia macchina ci fosse Verstappen e filerei via irresistibile fino all'apparire di due macchine rosse, perché a quel punto non si capisce com'è. Questo olandese, quando vede rosso, diventa Red Bull toro scatenato, hai capito? Io lo so, Leo, che hai maramaldeggiato in mia assenza, osando difendere l'indifendibile, ma siccome non c'ero ti perdono, così come perdono quelli che hanno messo Carletto sul carro dei bolliti. Che vogliamo fare? Tutti a dire qui là, povero carro, ma perdete che gli danno oltre alle attive di birra una svalangata di milioni di euro. Sì, sì. Quindi, povero carro. Anche a Raikkonen, Raikkonen è attivo, non è stato esonerato, nonostante la tua campagna ostile, alla quale si unirà il mio amico Giancarlo Minardi, ho sentito che c'è anche lui. Sono pronto al pezzo. peggio. Eccolo qua, eccolo qua, Minardi. L'hai evocato, ciao, eccolo qua. Tranquillo, non voglio fare campagne contro Ray Conan. Non vuoi fare campagne contro Ray Conan? No. Adesso deve lavorare per coprire le spalle. Infatti, è l'unica strada che la Ferrari ha per recuperare il brutto weekend di Singapore. Sì, allora ragazzi, io vi propongo questa suggestione, coinvolgendo anche Roberto Ungaro, perché ci sono due rosse italiane che rischiano tutto, una in Formula 1 nel Gran Premio della Malesia di questa settimana e l'altra la Ducati con Dovizioso tra una settimana. Allora, partiamo dalla rossa Ferrari. Si gioca tutto, no? Mi pare possiamo essere tutti d'accordo? Deve recuperare 28 punti, quindi c'è poco da lasciare sul campo. Bisogna arrivare primi, Vettel deve vincere. E commettere di qui alla fine dell'anno meno errori possibili. Leo? Beh, guarda, l'aritmetica in questo caso è abbastanza chiara. Tu pensa questo, che se Vettel vincesse le prossime 5 corse e Hamilton arrivasse 5 volte secondo, a Hamilton basterebbe vincere la sesta, quella che resta, con qualunque risultato di Seb per essere lui il campione del mondo. A Singapore non è che la Ferrari ha perso una vittoria, algebricamente ha purtroppo visto svanire 38 punti, perché se fosse stata, diciamo, una partenza normale e la coppia rossa avesse fatto doppietta, al massimo Hamilton arrivava terzo. Adesso Vettel sarebbe andato in Malesia con un vantaggio di 10 lunghezze sotto di 28, quindi è un meno 38. È chiaro che è difficilissimo, ha detto bene Giancarlo, bisogna non sbagliare niente, fare più doppiette possibile per il calcolo matematico che ho fatto poco fa, e soprattutto dare a Vettel e a Raikkonen una macchina che sia quasi sempre più veloce della Mercedes, e questo credo sia il vero problema con le piste che ci aspettano. Roberto, e la rossa Ducati invece con Dovizioso si trova più o meno nella stessa situazione? Più o meno sì, l'unica differenza con la rossa delle quattro ruote è che ci saranno forse meno giochi di squadra, perché nelle moto per tradizione non ci sono, e Lorenzo sinceramente ambisce più a conquistare la sua prima vittoria piuttosto che guardare le spalle di Dovizioso. E attenzione, perché Motegi, nonostante sia la pista di casa Honda, è una pista favorevole a Ducati, perché lì le sue prestazioni possono esprimersi, e quindi io direi stiamo attenti, perché potrebbe veramente già lì fare il colpaccio Lorenzo. Comunque speriamo che Dovizioso recuperi. Nota di curiosità: oggi compleanno di Pedrosa, un talento inespresso nella classe regina, perché ha vinto il 125, il mondiale del 2,5, ma non si è espresso nella classe regina. È anche vero che lui è alto solo 1,62 e poco più di 50 kg di peso, non è certo avvantaggiato. L'elettronica dell'ultima generazione gli può dare una mano, ma fino a un certo punto. Senti, Robby, fammi arrabbiare Turrini, tu come la vedi invece la sfida al mondiale di Formula 1? Io la vedo molto molto dura per la Ferrari, cioè deve succedere qualche cosa alla Mercedes perché possa di nuovo tornare davanti, perché altrimenti secondo me non c'è storia, bisogna purtroppo già rassegnarsi. Però nelle corse abbiamo imparato che finché non c'è la bandiera a scacchi, però la vedo molto molto molto dura. Sì, la vedo durissima. Anche perché stavo dando un'occhiata, le doppiette che sono state evocate, la Ferrari ne ha fatte due questa stagione, e cioè Monte Carlo e il Gran Premio d'Ungheria, quindi non è una variabile così semplice anche statisticamente, visto che dopo 16 gare tu hai la fotografia di come sta andando una stagione, dopo 15 gare evidentemente stiamo parlando di qualcosa che va oltre l'impresa, il che aumenta il rammarico per l'incredibile suicidio dell'altra settimana. Giancarlo, tu come lo vedi quella? Guarda, io sono abituato a guardare avanti, ormai quello che è stato, adesso ripeto, sono sei finali, e in queste sei finali non bisogna commettere errori e possibilmente stare davanti ad Hamilton. Certamente Vettel deve fare la gara prima di tutto su Hamilton, cosa che non è stata fatta fino a questo momento. Bisogna portare via dei punti a Hamilton, prima o poi può sbagliare anche Hamilton, e più la Ferrari si avvicina e più pressione si mette sulla Mercedes e è più facile commettere degli errori. Ecco. Sì, anche nella prima parte anche Hamilton non è stato esente da qualche errorino, quindi come ha sbagliato a Singapore possono sbagliare anche gli altri andando avanti. Adesso l'importante è andare forte con Giuseppe in questo momento, in questa sessione di prove, siamo solo in prove libere due, quindi bisogna stare calmi, bisogna cercare di stare davanti e, ripeto, portare via più punti possibili a Hamilton di qui alla fine dell'anno, e poi andremo a vedere come finisce. Poi leggiamo la classifica. Grazie Giancarlo. Grazie Giancarlo Minardi. Grazie. Ci vediamo per il traffico, così Turrini è contento, vediamo se sono notizie sulla Pero Cormano e torniamo. I love this game. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, è il venerdì, è Racing Team, aspettando la Ferrari, aspettando la settimana prossima la Ducati, Giovanni Capuano, ovviamente Leo Turrini e Roberto Ungaro. Dimmi Giovanni. Guarda, fuori dalle battute, a me piacerebbe capire, e Leo queste cose le sa, se in queste due settimane è stato fatto il punto dopo il casino dell'altra volta. Cioè, se dobbiamo aspettarci da parte di Raikkonen un atteggiamento diverso, perché magari qualcuno gli ha spiegato che mancano sei finali, come le chiamava prima Minardi. Io vorrei anche non rispondere a questa domanda, perché è talmente evidente, ormai hanno capito tutti che il Singapore è l'unico che non c'entrava nulla col casino, è stato Raikkonen, che non capisco. Cioè, è partito benissimo, perché la prima curva doveva essere secondo dietro Vettel per fare doppietta. Era l'unica situazione dove si poteva sorpassare. Non c'è più uno al mondo, dopo aver visto le immagini milioni di volte, che pensa che sia una responsabilità di Raikkonen. Per cui preferisco dire una cosa al mio amico Ungaro. Dica. Noi, ferraristi, dico, abbiamo bisogno, per tenere viva la tabella mondiale, di un Hamilton in versione Iannone delle sei gare. Vabbè, già in versione Iannone, guarda com'è vestito. Allora, nella vita privata è molto molto simile, cioè diciamo che Iannone vuole fare l'Hamilton, e che quella celeb la puoi fare se sei anche un vincitore, quindi gli manca un particolare, ma c'è molta molta affinità fra i due. Appunto, ma io vorrei che questa affinità si estendesse al rendimento in pista, per le sei gare che rimangono. Poi guarda, scusa, io sono in coda sulla Pero Cormano, gli ha detto il figlio di Ancelotti che se per il suo compleanno Pedrosa è contento di ricevere 300 lattine di birra, gliele mandiamo, perché non sappiamo come fare a finire. Quindi c'è Camomillo, le vuole, no? Via Fornovo, facciamo partire un caravan e facciamo avere a Pedrosa le birre del Bayern, hai capito? Possiamo fargli un regalo. Carico della famiglia Ancelotti, ragazzi, siamo qui, siamo pronti, durissimo weekend in Malesia, sapete che è l'ultima volta che si corre in Malesia, perché alla fine della fiera, dopo quasi 20 anni, il governo di Kuala Lumpur ha deciso di rinunciare all'appuntamento con la Formula 1. Ci sono dei ricordi bellissimi per chi tifa Ferrari lì, che la prima volta nel 99, io ero là, fu il grande ritorno di Ciumi dopo l'incidente di Silverstone. Lui fece, a proposito di giochi di squadra, da perfetto gregario a Ed Irvine, gli lasciò la vittoria dopo aver toccato anche lo squadrotare. E sempre lì Alonso ha vinto con la rossa una delle sue corse più belle del 2012, approfittando di un monsone improvviso dopo le qualifiche. Fernando era in settima fila e venne giù un temporale improvviso, lui cambiò le gomme prima e fu una delle sue ultime prese con la macchina del cavallino. Quindi speriamo, scusate, sto aprendo la lattina che mi ha dato il giro di Ancelotti, sentirete forse lo strappo. Mentre guidi, ma no, mentre ma non guidi, Leo. No, sono in coda. Si può bere sulla macchina con la guida assistita in coda? No. Speriamo che questi precedenti, insomma, siano di buon auspicio, ma come ci ha detto anche prima Minardi, è molto molto dura. Senti, Roberto, qualche novità, qualche sussurro, bisbiglio? Sappiamo che il mercato piloti comincia è in ebollizione, in fermento. Qualche sussurro, qualche bisbiglio settimanale? Niente, perché i giochi sai che sono fatti. Gli ultimi accasamenti ci sono stati, i contratti erano biennali e quindi fino a tutto l'anno prossimo è fermo. solamente nel 2019 diventerà interessante. Un'altra cosa che devo dirti, non dimentichiamoci di lui, del dottore, perché si sta allenando, l'abbiamo visto in forma, quindi in Giappone sarà quasi al 100%, soprattutto per quanto riguarda la resistenza sulla durata, sulla lunghezza intera della gara. E quindi non facciamo i conti escludendo Valentino, perché lì potrebbe anche lui dire la sua, sicuramente sarà una gara appassionante. Ma potrebbe essere l'arbitro del mondiale? Anche, pensa che soddisfazioni potrebbe prendersi nei confronti di Marquez. Sei maligno, ma non voglio pensare così. Sei maligno. No, se ne sono sentite di tutti i colori, anche nell'online, sul fatto che Valentino rientrava solo per aiutare Dovizioso e quindi a questo rientro prematuro è stato se mai Vignales però perdonatemi è stato detto per Dovizioso, ma queste cose, questi giochi non sono stati nemmeno pensati secondo me nella sua testa. Poi sono cose che nel mondo delle moto non si fanno, no, assolutamente no, come non c'è gioco di squadra, come non ci sono quelle cose, si è fatto una volta ma come tutti gli una tantum perché di verità c'era ben meno di quello che poi si è pompato nel web attorno a quella vicenda e quindi poi si è protratta troppo nel tempo, che è un capitolo chiuso. Nelle moto sapete che purtroppo per Iannone conta solo il cronometro e quindi nero su bianco la classifica, quello e quello rimane. No, io dico che Valentino potremmo avere delle sorprese perché sarà, ripeto, quasi al 100%. Sta intensificando i suoi allenamenti, si sente sempre meglio, ovviamente lo fa con progressione, con gradualità, però ci sarà anche lui nella battaglia. Quindi sicuramente Honda, Yamaha e poi vedremo. Vignales ha ancora il mondiale in pugno perché non ha detto addio, però Vignales lo vedo con questo finale di stagione con qualche problema in più rispetto all'inizio, è andato calando, quindi sicuramente io dico che è un discorso fra Marquez e Ducati, però purtroppo Marquez tutto sulla falsa riga del mondiale di Formula 1. Mi sembrano due corse parallele, slalom parallelo forse c'è una possibilità in più per Ducati rispetto a Ferrari, dico io. Speriamo. Ciao Roberto Ungaro. Ciao, un saluto a tutti, buon weekend. Ciao, io invece a Leo Turrini voglio chiedere che corsa vedremo in Malaysia. No, volevo dire però una roba, perché non vorrei che passasse sotto silenzio quello che appena ha detto Ungaro, che lo dice sempre anche Pelede, che purtroppo per Iannone il problema è il cronometro. Quindi qui dobbiamo ripetere che queste sono delle rivelazioni, non siamo neanche in fascia protetta, io non lo so, cosa vuoi sapere? No, che corsa vedremo in Malesia? Sai, lì molto spesso dipende dal meteo, nel senso che, come dicevo prima, evocando la vittoria di Alonso, arrivano dei monsoni ogni 2x3 e allora è chiaro che se viene a piovere può succedere davvero di tutto, come purtroppo abbiamo riscontrato anche a Singapore. Se è una gara asciutta, la Ferrari della libera del venerdì, l'hai ricordato tu, è andata molto bene, primo e secondo, però è una pista sulla quale, secondo me, sull'asciutto Hamilton si trasforma in Iannone, sarà un osso durissimo. Domenica mattina alle 9, tutti pronti, svegli, io bloccato sul papero formano, perché stratine di birra degli Ancelotti che ormai ci sta creando una ressa, staremo qui fino a lunedì, speriamo domenica di avere una bella notizia. Va bene, ciao Leo, grazie. Un abbraccio, ciao. Ciao Leo Turrini, siamo in chiusura di Racing Team, di tutti i convocati di settimana, riapriamo la bottega domenica a Capuano alle 17. Speriamo che le Ferrari siano andate oltre la prima curva a sto giro. Mamma mia, che menagramo se ti sente Turrini. Grazie Giovanni Capuano, Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia. Sentiamo domenica e poi lunedì alle 14 tutti i convocati. E casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti!